che ci sia l'uguaglianza di partenza, il lavoro per tutti e la giustizia. Allora c'è la libertà, se no non c'è libertà. Lei crede che ci abbia libertà un muratore, uno che sta su una gru in nero, che non può fare, se casca di sotto fanno finta che sia morto il giorno prima e che se dice una parola lo cacciano via. Quello che pensate che sia libero, libertà, vive in uno Stato democratico. E così viviamo ormai da due o tre generazioni, sempre peggio, sempre peggio. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Avendo avuto un ideale suo, insomma, da mito, eccetera, come di aver distrutto, umanizzato quasi questa visione che avevo di lui precedentemente. Mi pareva di rivivere le stesse dinamiche vissute molti anni prima, dove lui litigava con i nostri genitori. Solo che il genitore stavolta ero io. Storie di fratelli e di false notizie in una puntata tutta dedicata al vizio dell'ira. Era la voce di Mario Monicelli quella che abbiamo usato per aprire questa puntata di Linee d'Ombra. Era una voce di una vecchia intervista in cui raccontava di lavoratori sfruttati, e ci serve per introdurre una delle storie che raccontiamo oggi, che è una storia che parla di italiani che vanno all'estero a lavorare poco prima dell'inizio del secolo scorso, anzi di due secoli fa, poco prima dell'inizio del Novecento. Vanno in Francia, banalmente, non vanno nemmeno così tanto lontano, vanno in Provenza, ad Aigues-Mortes, e lì trovano un destino abbastanza terribile. Sono andati lì per lavorare e scappano delle notizie che probabilmente sono notizie false, inventate. Parleremo anche di questo oggi attraverso le storie qui a Linea d'Ombra, e queste notizie portano davvero a un massacro vero e proprio di italiani che erano lì semplicemente per lavorare. E Linea d'Ombra è il programma che vi racconta tutti i giorni delle storie legate alla vostra vita, delle storie di episodi della vostra vita che hanno a che fare con quel confine sottile, che divide la luce e l'ombra. E in questi giorni, in particolar modo in questa città, che oggi è una città piena di sole ma un po' perplessa, devo dire, arrivando in radio un po' tutti probabilmente ce ne siamo accorti, proprio in questa città, a Milano, ma probabilmente dappertutto in questo paese, in questi giorni, in questi ultimi giorni, il confine tra la razionalità e l'istinto, tra la luce e il buio, tra la paura e il mantenere invece salda la propria coscienza, è molto molto sottile, corre su un filo, e quello che stiamo facendo tutti i giorni è che sta facendo magnificamente questa radio, è quella di cercare di tenere informate le persone su quello che accade. Noi qui a Linea d'Ombra facciamo un'altra cosa, raccontiamo storie, e continueremo a farlo e continuiamo a farlo. Oggi la puntata è dedicata al vizio dell'ira, e abbiamo appunto due storie. Una che vi ho appena accennato è quella del massacro di Aigues-Mortes, che è una storia davvero recente che solo da poco si è venuta a conoscere qui in Italia, anche proprio perché in Francia è stata tenuta molto molto nascosta per quasi un secolo. E però apriamo con una storia di uno scatto d'ira, di quegli scatti d'ira che abbiamo veramente imparato a conoscere, sono molto frequenti nelle nostre vite quotidiane, in questo caso tra due fratelli. A raccontarcela è proprio Diego, e Diego ce la racconta nei minimi particolari e ce la racconta con grande attenzione che cosa accade quando due fratelli si ritrovano a vivere insieme. Le cose non vanno, e come dice lui, non basta avere lo stesso sangue per poter continuare ad andare d'accordo, anche quando una persona ti manca di rispetto. Tanto tempo fa avevo letto, a proposito della narrazione e delle storie, che sugli antichi bastimenti che trasportavano merci e persone, e sui quali era ahimè molto frequente facessero naufragio, sulle scialuppe di questi bastimenti si trovavano il necessario per la sopravvivenza, quindi acqua, alcuni viveri per poter garantire di sopravvivere alle persone che si trovavano su queste scialuppe di salvataggio in attesa che qualcuno le andasse a prendere. Oltre all'acqua e ai viveri c'era un manuale che descriveva che cosa fare, come comportarsi, e quindi quanto mangiare, quanto bere, e cercare di capire come sopravvivere al caldo, al freddo, eccetera eccetera. Tra i vari suggerimenti che si davano su questi manuali di sopravvivenza ce n'era uno molto specifico che diceva: per tenere alto il morale in momenti di difficoltà avete due possibilità: cantare delle canzoni allegre, oppure raccontarvi delle storie. È quello che noi siamo qui e continuiamo a fare. Sulla soglia dei 31 anni mi ritrovavo per svariati motivi a dover vivere nuovamente a casa dei miei genitori. Caso volle che a distanza di qualche mese anche mio fratello maggiore, a causa della sua separazione dalla moglie, cercasse una casa. Sapendo le difficoltà economiche dovute al mantenimento dell'ex moglie e del figlio, e avendo io la necessità di riprendere la mia indipendenza abitativa, gli proposi di affittare un appartamento insieme e di dividere le spese. E lui accettò. Sapevo che mio fratello, più grande di 12 anni, aveva diverse problematiche che avevano creato parecchi disordini nella nostra famiglia. Ma ormai mi pareva molto più calmo e io mi ritenevo abbastanza maturo per affrontare tutto ciò e magari aiutarlo con qualche consiglio. I primi mesi assieme passarono abbastanza tranquilli, poi cominciarono le litigate. Lui beveva quotidianamente e, preda dei fumi dell'alcol, molte volte trovava pretesti assurdi per bisticciare. Io, diverse altre, invece di evitare, gli rispondevo, alimentando quel fuoco. Mi pareva di rivivere le stesse dinamiche vissuti molti anni prima, dove lui litigava con i nostri genitori, solo che il genitore stavolta ero io. Non era cambiato per niente. Era sempre il solito personaggio che con una mano ti chiedeva aiuto, con l'altra ti dava uno schiaffo. Dopo 8 mesi mi accorsi che l'unica bolletta di cui gli avevo lasciato l'incarico di andare a pagare non veniva pagata, fregandosi così la metà dei soldi che io versavo. Cercò di raggirarmi, incolpando l'azienda telefonica, di chissà quale errore, ma io lo smascherai. Parve pentito, e io, conoscendo anche le sue difficoltà economiche, che non lo facevano arrivare a fine mese, lo perdonai. Il rapporto tra noi, quando ero ragazzino, quando ero più piccolo, insomma, avendo anche 12 anni di differenza, per me era un po' un mito, era un po' anche, mi dava un fascino anche di trasgressione, perché comunque da una parte aveva causato diversi problemi in famiglia per i problemi che aveva lui, però da una parte l'ho visto andare via di casa molto presto, lo vedevo in giro magari con amici, avevo un po' subito il fascino della trasgressione da parte sua. Passarono poi dei buoni momenti, pareva cambiato, anche nei confronti dei nostri genitori e di nostra sorella. Si trattava però di un cambiamento precario. A distanza di tempo scoprì che oltre all'alcol aveva anche il vizio del gioco. Lo vidi perdere il lavoro, giocarsi parte del TFR, vincere 21.000 euro e un mese e mezzo dopo chiedermi 10 euro per le sigarette. I litigi ricominciarono così dopo un totale di 2 anni abbondanti passati assieme, decisi di andarmene. Ero anche abbastanza tranquillo per lui, dato che aveva trovato un lavoro che gli fruttava il doppio del mio salario, perché comunque non avevo intenzione di lasciarlo in mezzo a una strada. Mancavano 2 settimane alla mia partenza. Gli dissi che, se voleva, quel sabato lo avrei aiutato a pulire a fondo la casa. Mi pareva giusto prima di andarmene e lui acconsentì. Quel sabato però di lui persi le tracce. Tornò nel tardo pomeriggio e mi disse che non gli andava di pulire e quindi lasciai perdere anch'io. Alle 9 del sabato mattina della settimana dopo, l'ultimo che avrei trascorso lì in casa, dalla mia camera sentii della musica ad alto volume, rumori di scopa e mocio che provenivano dal salotto. Era lui che faceva le pulizie. Lo conoscevo. Sapevo che stava tessendo la tela per il prossimo litigio. Sapevo che me l'avrebbe rinfacciato. La sera prima avevo avuto una notte di bagordi con degli amici, quindi rimasi a letto, aspettai che finisse e poi mi alzai. Evitai ogni sguardo, bevvi un caffè al volo, mi fiondai all'uscita per andare a fare spesa, sperando che allontanandomi non sarebbe accaduto nulla. Vicino all'uscio notai due sacchi dell'immondizia. Ne afferrai uno per evitare qualsiasi pretesto. «Butta quell'altro che è più pesante», mi urlò. «Sempre comodo tu, eh?» Io non ascoltai e uscii. Era già ubriaco. Durante il tragitto sentii la rabbia salirmi. Sapevo che non mi avrebbe lasciato in pace nemmeno in quegli ultimi giorni di convivenza. Al mio ritorno feci finta di nulla e cominciai a sistemare quel po' di spesa fatta. Ero davanti al frigorifero e stavo riponendo all'interno una lattina di birra appena comprata, quando mi venne incontro mio fratello con un bicchiere colmo di vino in mano. Mi urlava addosso dicendomi che avrei dovuto aiutarlo a pulire. Cercai di rispondergli facendo capire che la settimana precedente io ero disponibile, ma lui urlava sempre di più. Di fronte a quel muro sordo che mi aggrediva provai una vampata di rabbia, gli diedi uno spintone facendolo volare a terra. Lui riuscì a mantenere il bicchiere in equilibrio. Fece per rialzarsi, lo spinsi di nuovo. Stavolta il bicchiere esplose a terra macchiando di vino rosso tutto ciò che stava attorno. Gli intimai di stare a terra, ma lui si rialzò. Mi sferrò quattro pugni. Quando si fermò, cominciai a colpirlo io al volto, con la lattina che tenevo ancora in mano. Vedere la sua faccia sofferente e stupefatta allo stesso tempo, in quel momento mi diede soddisfazione. Mi pareva di distruggere quel muro sordo che tanto urlava e mai ascoltava. Quando la lattina esplose tra le mani, riacquistai un po' di lucidità, ma non mi sentii del tutto soddisfatto. La rabbia ribolliva ancora, pensavo a tutte le volte che quell'uomo si era approfittato di me, dei miei genitori, del disprezzo che ci aveva gettato addosso in più occasioni. Volevo fargli prendere un grande spavento. Afferrai un paio di forbici che stavano sul tavolo e finsi di colpirlo più volte, fermandomi sempre prima. Lui era terrorizzato. Quando lo vidi veramente spaventato, mi fermai. Gli dissi che per essere fratelli non bastava un legame di sangue e che non è sempre scontato che un parente te la faccia passare liscia in ogni occasione, come a lui era sempre successo. Mio fratello uscì per andare a farsi mettere qualche punto all'ospedale. Io mi sentivo svuotato, ma non pentito, almeno non per il momento. C'erano già stati appunto diversi litigi, si alzava la voce, parolacce, eccetera. Ero arrivato massimo a spingerlo un po' in là, quasi un anno prima. Ma poi, dopo l'episodio della bolletta, è stato come un caricare e una molla. Ci sono state altre discussioni, ma non a livelli così alti, insomma, finché appunto non sono arrivato io a esplodere. Poco dopo ricevetti una chiamata. Era mio padre. Sentì quell'uomo di 73 anni piangere e chiedermi che cosa avessi fatto, dirmi che non era quello ciò che mi aveva insegnato. E io non riuscivo a credere che mio fratello fosse andato a tirare in mezzo nostro padre. Dopo un nuovo scatto d'ira mi fermai e capii che non avevo colpito solo quel muro sordo, ma che avevo ferito più di tutti l'uomo che mi aveva cresciuto con tutt'altro genere di principi. Mi sentii a pezzi. Pochi giorni dopo andai a vivere per i fatti miei e con quel fratello non fratello non ebbi più contatti. A distanza di un anno abbondante non sento un senso di rimorso per avergli messo le mani addosso. L'unico rimorso proviene dall'avere fatto del male a mio padre, quello sì. I can't get there on my own. You can't leave me here alone. I'm just trying to do what's right. Poor man ain't a man unless he's fought the fight. Di oggi è una puntata che appunto è dedicata a un vizio particolare, il vizio dell'ira. In questi mesi, ve l'abbiamo detto anche più volte, tra le varie storie che ci sono arrivate legate alle linee d'ombra, legate quindi ai vizi capitali e non solo, proprio a quel confine tra la razionalità e l'irrazionalità, le storie di ira sono le storie più frequenti. E la storia di Diego è una storia esemplare per come la racconta lui, per l'onestà con cui ce la racconta e perché davvero ci dice come ogni tanto la luce si spegne. La luce si spegne e uno perde un pochettino il senso di quello che fa, anche se, come dice Diego, lui in realtà non se n'è pentito. Pronto, ciao Diego, buongiorno. Ciao Matteo. Grazie mille per essere qui e grazie per, come dicevo, l'onestà e la sincerità, il cuore in mano con cui ci hai raccontato questa storia. Senti, partiamo proprio da qui, perché credo che un po' tutti interessi. In che rapporti sei in questo momento con tuo fratello? Non lo vedo, non lo sento più praticamente. Da quel giorno? Tagliato i ponti, sì. Da quel giorno? L'ho rivisto al funerale della nonna. E neanche un anno fa lui ha provato a salutarmi, però non gli ho dato risposta. Quindi tu continui a, al di là del pentimento, che è una questione che diciamo mi interessa di meno, tu non hai deciso di provare a riallacciare un rapporto con lui, perlomeno non in questo momento della tua vita? No, non ne vedo il motivo, cioè non è mai stato un fratello. Forse il giorno che si comporterà da tale con qualche suo gesto, che però finora non è mancato, e forse quel giorno, chi lo sa, però ho dei grandi dubbi, diciamo. Ti fa male questa cosa? Ti fa ancora stare male? Ricordarla e pensare anche tutto il vissuto con lui mi tocca. Anche se, a dire la verità, dopo che ho scritto a voi, qualcosa è cambiato, come una consapevolezza, e mi sono un po' più... Prima la vivevo ancora con rabbia, adesso un po' più emotivamente, però... un po' diversamente, ha avuto un che di terapeutico scriverlo. Senti Diego, tu racconti anche nei dettagli come proprio ti scagli contro di lui. È stata una novità per te questa? Cioè, diciamo, da ragazzo eri magari abituato a come si dice dalle mie parti, a usare le mani, a menare le mani, oppure è stato totalmente sorprendente anche per te? Ma ho avuto un paio di episodi in precedenza, ma non c'è nulla di così feroce, insomma, così proprio da spegnersi, come hai detto tu. Senti, invece con tuo papà a che punto sei? Ci hai parlato, vi siete confrontati, hai cercato di fargli capire? Sì, lo stesso giorno, proprio quando l'ho sentito al telefono, e subito mi è venuto un altro scatto d'ira, perché mi sono detto, ma perché ho dovuto andare a contattare lui, come se volesse fare un torto a me, non capendo che in realtà faceva solo soffrire lui. Che perché molto... quando tuo fratello ha chiamato tuo padre, a questo ti riferisci? Sì, proprio quando è uscito di casa quel giorno, 5 minuti dopo l'ha chiamato. E mi sono detto, ma perché devi andare a far soffrire di nuovo papà, che ha anche una certa età, è una persona mite, molto dedita al volontariato. E subito sono andato, subito mi è venuta dell'ira di nuovo, mi sono arrabbiato di nuovo. Poi arrabbiandomi, mio papà mi ha sentito, ho peggiorato la situazione, allora sono andato a casa sua e sono rimasto con lui, che l'ho trovato in lacrime, insomma. Quindi adesso tuo papà lo vedi da solo, senza tuo fratello, immagino? Sì. Ma ad esempio per Natale cosa avete fatto? Vi siete divisi? Ma mio fratello si esclude dalla vita familiare proprio. C'era tutta la famiglia, Natale, mia sorella, i miei zii, e lui proprio si esclude da questa attività. Segno di che persona è, insomma. Senti Diego, insomma, non so se sperare che vi riconciliate oppure no, farà il proprio corso. D'altra parte, come dici tu, a un certo punto lo racconti, no? Non è che perché sia lo stesso sangue che si deve per forza avere un rapporto. Questo poi ognuno sta davvero a ognuno e alle persone. Quello che invece mi faceva rabbia era proprio che lui, col pretesto di essere consanguinei, si poteva permettere di tutto, secondo lui, senza mai pagare una conseguenza, perché questo anche i miei genitori non gli ha mai fatto pagare nulla, infine l'ha sempre aiutato. Chiarissimo. Diego, so che devi andare a lavorare, che hai un turno, che lavoro fai? Metalmeccanico. Il metalmeccanico, quindi entri, tipo a che strumento stai oggi, a che attrezzo stai? Oggi sono in lucidatura lamiera. Va bene, allora ti lascio andare. Diego, grazie davvero mille per la storia, in bocca al lupo. Ciao, per Matteo, tutto. Ciao. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile? Anch'io ho una storia da raccontare. Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. C'è una poesia molto poco conosciuta di Edmondo De Amicis, che invece è molto conosciuto perché ha scritto il libro Cuore, che è dedicata agli italiani che alla fine del 1800 si imbarcavano per emigrare soprattutto gruppi familiari salivano su queste navi, da Genova in questo caso. Questa è dedicata proprio a una nave che parte con un gruppo di italiani che da Genova vanno verso la Francia in questo caso. E quella poesia di cui vi leggo proprio un piccolo pezzo serve a introdurre la prossima storia, che è una storia dedicata all'ira, che è dedicata all'ira, come tutta la puntata di oggi, come tutte le storie della puntata di oggi, a un'ira particolare, quell'ira che viene scatenata da fraintendimenti o, se vogliamo, da notizie false. Dice così, come se li vedesse sulla nave: ammonticchiati là, come giumenti sulla gelida prua morsa dai venti, migrano a terre inospitali e lontane, laceri e macilenti, varcano i mari per cercar del pane, traditi da un mercante menzognero, vanno oggetto di scherno allo straniero. Bestie da soma, carne da cimitere, vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti. Questo pezzo, Edmondo De Amicis l'ha scritto, questa poesia l'ha scritta nel 1882, proprio per tutti gli emigranti italiani. La seconda storia di oggi parte da un fatto che è avvenuto nel 1893, cioè esattamente 11 anni dopo che De Amicis scrivesse questa poesia che vi abbiamo appena letto, e parla del primo grande episodio di xenofobia avvenuto in Europa. È avvenuto proprio per un errore nel passaggio di informazioni. In questa puntata, che è dedicata al vizio dell'ira, la seconda storia di oggi è quella del massacro di italiani ad Egmort. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Come si arrivò tra il 16 e il 17 agosto 1893 all'uccisione di 10 italiani, oltre ad un numero sproporzionato di feriti, e a un controesodo di centinaia di operai e famiglie italiane? Egmort a fine 800 è una città povera, dall'economia sonnolenta. Si anima solo ad agosto, durante la raccolta del sale, quando vengono assunti 1500 stagionali dalla Compagnie du Salin du Midi. Oltre ai locali ci sono i trimard, cioè sono lavoratori senza fissa dimora, spesso sono pregiudicati. E poi ci sono circa 600 italiani, per lo più piemontesi e toscani, quasi sempre ingaggiati tramite caporali che operano oltre confine. Il clima è teso, del resto nel paese si vive la psicosi dell'invasione straniera. La stampa francese ripete strenuamente che la manodopera italiana toglie il pane dalla bocca, e alla paura di perdere posti di lavoro e spazio nell'economia nazionale si aggiungono ritratti molto razzisti degli italiani, che, dicono testualmente, sono sporchi, tristi, straccioni e formano intere tribù che emigrano. I giornali parlano di un'invasione silenziosa e della minaccia che la patria venga sommersa dall'ondata migratoria italiana. L'atmosfera nelle saline non è diversa dal quadro dipinto dai giornali. C'è nervosismo. Italiani e francesi non si integrano. Le quasi 90.000 tonnellate di sale devono essere portate via in breve tempo per evitare che arrivi la pioggia e che le sciolga. I ritmi sono massacranti. La retribuzione a cottimo premia gli operai italiani più robusti e abituati ai lavori duri. È un'estate torrida. Si dorme in baracche insalubri, con il rischio di contrarre la malaria e con poca disponibilità di acqua potabile. Secondo gli storici, potrebbe essere proprio l'acqua uno dei futili motivi che hanno portato alla caccia all'italiano. Il giorno prima del massacro, durante una pausa dal lavoro, un torinese, rispondendo a una provocazione di un gruppo di lavoratori francesi, avrebbe lavato il suo fazzoletto pieno di sale nella tinozza contenente l'acqua dolce. La reazione dei francesi sarebbe stata molto violenta. Il torinese avrebbe quindi ferito con un coltello uno degli aggressori. Si susseguono scontri, ripicche tra italiani e francesi, fino a quando non interviene il magistrato e riporta la calma. Ma è una calma momentanea. In città il passaparola è iniziato. C'è la convinzione che gli italiani abbiano ucciso alcuni francesi. L'eccitazione non è più controllabile. C'è voglia di impartire una lezione ai maledetti italiani. I trimar, che non hanno trovato lavoro, e altri cittadini scendono per le strade. «Viva l'anarchia, morte agli italiani!» riecheggia tra i vicoli del centro di Egmort. Trimare cittadini circa 500, muniti di randelli, seguono il pubblico banditore, che annuncia la caccia all'orso italiano. Gli italiani cercano rifugio dove possono, persino nella questura e nelle carceri cittadine. si contraddistinguono dei giusti che salvano molti degli assaliti da morte certa, come il parroco Mogè, che accoglie gli italiani nella sua abitazione privata, o la signora Fontaine, proprietaria di una panetteria, che fa barricare gli assaliti nel suo negozio e con loro resiste eroicamente all'assedio e ai tentativi d'incendio per oltre 27 ore. Al mattino la situazione degenera. I rivoltosi si dirigono verso le saline, dove è maggiore la concentrazione degli stagionali stranieri. Il capitano della gendarmeria si impegna pubblicamente per l'espulsione degli italiani. L'obiettivo è quello di scortarli fino alla stazione locale e mandarli via con il primo treno. Ma la scorta delle forze armate fallisce e il massacro ha inizio. Un sopravvissuto racconterà così: «Tutta questa gente si è avventata contro di noi, ci gettava delle pietre, ho anche sentito parecchie fucilate. La folla ci ha travolto, siamo fuggiti da ogni lato. Ci inseguivano come fossimo un gregge di pecore. Io sono stato buttato nel canale con alcuni compagni». I francesi si erano piazzati dall'altro lato del canale tra le vigne e quando tentavamo di uscire le pietre ci cadevano in testa come neve. L'esercito, chiamato all'alba dal prefetto, non arriva prima delle 6 di pomeriggio del 17 agosto. Perché questo ritardo? È difficile dirlo. Sappiamo però che è stato funzionale all'insabbiamento di tutte le responsabilità. Il massacro si conclude con 10 vittime accertate, 14 dispersi e un centinaio di feriti. Il governo italiano in seguito chiese la testa del sindaco di Aigues-Mortes e i francesi gliela consegnarono senza problemi. I veri responsabili, come il prefetto o il generale, che non ha dato l'ordine di intervenire, la fecero franca. Non interessò a nessuno fare un'inchiesta che appurasse le vere colpe. Le stampe di entrambi i paesi strumentalizzarono a loro piacimento il massacro e il processo, che durò appena 4 giorni, si concluse con l'assoluzione di tutti i 17 imputati che erano stati rinviati a giudizio. I fatti di Aigues-Mortes aprirono una profondissima crisi diplomatica tra Francia e Italia. Edoardo Scarfoglio sul Mattino invocò una guerra ai francesi e nella penisola le voci sul massacro avevano condotto a manifestazioni di massa a Genova, Milano, Roma, Napoli, dove migliaia di insorti si erano scontrati con i bersaglieri. L'anno dopo, esattamente il 24 giugno del 1894, l'anarchico italiano Sante Caserio colpì a morte con un pugnale il presidente francese Sadi Carnot. Caserio nominò il massacro di Aigues-Mortes come causa della sua azione. Ma questa pagina terribile venne opportunisticamente silenziata, fu soltanto negli anni 80 del Novecento che tornò alla luce, quando l'allora sindaco di Aigues-Mortes, Sodol Colombini, scoprì che le mura delle sue città nascondevano un segreto. «Di quelli che si sussurrano a bassa voce», disse, «per non farsi sentire dai bambini». Quando il circolo anziani della cittadina provenzale gli chiede il patrocinio su un convegno su quegli eventi, Colombini scopre che ad Aigues-Mortes, nel 1893, era stato perpetuato un pogrom, un massacro xenofobo, per qualcuno addirittura il peggiore della storia della Francia contemporanea. Some fit the balls of song to the bottom. Pour Questa storia l'abbiamo letta sull'Espresso in un pezzo firmato da Joshua Evangelista, ma se volete saperne ancora di più sul massacro di Egmort, che è davvero una cosa che è venuta alla luce, è tornata a galla pochi anni fa, forse 20 o 30 anni fa, potete leggere Egmort, il massacro degli italiani di Enzo Barnabà. È un libro che vi racconta molto bene questa storia. Ora ascoltiamoci Le strade in diretta, poi torniamo qui e continuiamo a raccontare di finte notizie che hanno modificato il corso della storia. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. E a questo proposito, visto che oggi abbiamo aperto raccontandovi storie di ira, storie appunto una, quella di un fratello che si scaglia contro un altro fratello in maniera decisamente virulenta, e l'altra invece è la storia di un massacro, quella che abbiamo appena raccontato, che nasce anche non solo dalla pressione dovuta al fatto che le persone che si trovano in Francia in quel momento sono degli italiani che cercano di lavorare e vengono alla fine massacrati anche a causa proprio di una pseudo fake news, chiamiamola così, cioè che un francese è stato ucciso, alcuni francesi sono stati uccisi dagli italiani, ma così in realtà non è andato. E cercando di saperne un pochettino di più di quante volte è capitato che nella storia anche molto lontana sia successa una cosa simile, abbiamo trovato un pezzo molto molto molto interessante firmato dalla professoressa Maria Vella. Lei è docente di economia e gestione del terzo settore all'Università di Siena, e questo pezzo, che si intitola Da Pericle a Trump, passando per Dumas alle origini delle fake news, apre con una storia interessante. Cioè una lettera mai scritta da un generale spartano, da Pausania, che avrebbe addirittura generato una guerra. E ne parliamo direttamente con lei. Professoressa Vella, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professoressa, eccomi. Ma cosa fa esattamente Pausania, che, o meglio, cosa non fa Pausania che fa scatenare una guerra? Fu considerato colpevole di alto tradimento, perché era stata diffusa con una lettera privata la notizia che aveva intenzione di tradire i greci per passare al servizio del re Serse. Per cui in realtà le fake news sono state solo da recente, sono state introdotte nel dizionario Collins, però in realtà hanno radici e origini storiche ben lontane, già dai tempi dei greci. Ce ne fa, professoressa, un altro esempio di questo, cioè di notizie che hanno scatenato delle reazioni che sono diventate un pezzo di storia, ma di fatto notizie non lo erano in qualche modo? Assolutamente, perché possiamo parlare anche di Pericle, uno dei personaggi più significativi della storia politica ateniese, stratego della città, ma fu perseguito con ostinazione perché è considerato uno dei fautori della guerra fratricida contro Sparta. Quindi in quel periodo vi furono molti processi che colpirono anche persone a lui molto vicine. E in realtà, appunto, questo da cosa derivava? Derivava dal fatto che ad Atene c'era una libertà di pensiero che si poteva esplicitamente manifestare, e questa libertà di parola aveva provocato quindi questa falsa imputazione di Pericle. Chiaro. E della sua decisione di allearsi con Serse. Esistono poi nella storia, cioè, queste fake news poi adesso si sono modificate le modalità di comunicazione delle fake news, certo, e adesso certo, evidente. Passano attraverso altri canali, chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. Le amplificano e quindi diventano molto più grandi, lo sappiamo, e facciamo fatica ad agganciarle, a capire appunto che non sono vere notizie. E in questi giorni appunto è anche tra l'altro un tema molto, molto caldo. Professoressa, un'ultima domanda prima di ringraziarla e salutarla. Quanto in questa propagazione di notizie false e di reazioni che appunto sono spropositate, la paura gioca una componente fondamentale? È fondamentale perché stiamo parlando di disinformazione e di misinformazione, cioè praticamente la condivisione involontaria di notizie false che purtroppo colpiscono quelle che sono le nostre debolezze, le nostre facilità, facendole quindi diventare un pensiero comune e diffuso a livello planetario, diciamo, come in questo momento. Professoressa, quindi, la ringrazio moltissimo, la devo salutare, ma se volete sapere qualcosa di più andate su vita.it, che è il magazine dove abbiamo trovato il pezzo della professoressa Maria Vella, da Pericle a Trump. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Complimenti per l'inclusione. A presto, buonasera, grazie. Buonasera, a presto. Laura Faggin balla come una matta di là dal vetro, visto che oggi è lei con noi al posto di Anita Panizza, che salutiamo. Noi continuiamo a raccontare, chiudiamo questa puntata che è tutta dedicata al vizio dell'ira, con una storia che è davvero al confine tra l'ira e la superbia. Noi abbiamo deciso di incanalarla in quel flusso di vizio, cioè il vizio della superbia, perché racconta una storia realmente accaduta, come facciamo sempre con la nostra storia seriale, come facciamo con tutte le storie, sono tutte storie vere, ma quella storia seriale che stiamo trattando in queste settimane, che Mauro Pescio raccoglie e racconta per noi, è una storia accaduta poco più di un anno fa in una scuola americana, dove c'è stato uno di quei terribili attentati, di fatto una strage vera e propria. Sono morte 17 persone, 17 ragazzi uccisi da un loro ex compagno di scuola. Eravamo in Florida e una di queste persone era una ragazza di una famiglia italiana che parla solo inglese, quindi qui noi la traduciamo, ma l'altra voce che sentirete è quella del padre italiano, che era andato a vivere negli Stati Uniti proprio per migliorare il futuro della propria figlia. Lei è sopravvissuta e ci sta raccontando questa storia, la storia di un uomo, un giovane uomo che probabilmente si sente, come da definizione della superbia, allo stesso, alla stregua degli dèi, e quindi pensa di poter dare vita e morte, in questo caso ahimè di dare solo morte. Ci stiamo infilando in quella giornata, stiamo entrando in quella scuola e sentiamo che cosa accade quando questo ragazzo, che non frequentava più la scuola, entra e comincia a sparare. Quello che è successo è che lui, essendo della scuola, conosceva la scuola a memoria, ha fatto suonare l'allarme antincendio sapendo che tutti evacuavano. Se lui cominciava a sparare, scattava il codice rosso e chiudevano tutte le scuole, le classi. Invece lui voleva creare uno scompiglio e ha suonato l'allarme, tutti sono usciti fuori. Fortunatamente lei in quel periodo stava nella classe vicino alla pista di calcio, e poi è scattato l'allarme rosso e in teoria dovrebbero rientrare in classe, però c'è chi gli diceva no, correte, correte, andate, capito? Perciò c'è stata un po' di confusione. Di conseguenza hanno cominciato a incanalarsi verso quest'altra uscita. E quando mi ha chiamato mi diceva, senti, è un po' confusa qua la situazione, cosa pensi che devo fare? Era capitato anche in passato di fare due esercitazioni lo stesso giorno. E così di nuovo ci incamminiamo verso l'esterno, siamo in tantissimi nel campus e tutti, la mia classe compresa, ci incamminiamo lungo le scale e poi all'esterno dell'edificio, nel prato. Appena siamo lì sul prato ci viene dato l'ordine di cominciare a correre il più lontano possibile dalla scuola. Tutti noi studenti ci incamminiamo su un sentiero molto stretto che serve per attraversare un canale, perché la scuola è per una parte circondata da un canale e per attraversarlo si deve passare su un ponte pedonale molto molto stretto, dove si passa soltanto in fila per due. Come prevedibile, dopo aver dato l'allarme di mettersi a correre nel parco, appena prima del ponte pedonale si crea un tappo. C'era chi rideva perché era ancora convinto che fosse uno scherzo, chi invece piangeva perché era spaventato, chi invece continuava a domandare a tutti cosa stesse realmente accadendo, e il ripetere la domanda senza ricevere risposta creava il panico tra i presenti. Io a quel punto ho telefonato a papà. C'è un codice, c'è l'allarme antincendio e c'è un codice rosso. Pensi che devo tornare in classe o dici che, visto che mancano solo mezz'ora, posso andare a casa? Questo mentre c'era un po' il panico, dice, non capisco che sta succedendo. E poi mi fa, guarda, no, perché adesso dicono che c'è una sparatoria. Ah, quando lei mi ha detto quello, io ho detto, no, ma che stai scherzando, corri. Cioè, vai più lontano possibile dalla scuola finché puoi. Cioè, voglio proprio che vai a un chilometro di distanza se puoi. E lì ha attaccato e ci siamo tenuti in contatto via test e messaggini. E lei mi diceva mentre usciva e saliva fuori. Sì, appena ho sentito che c'era la vaga così. E poi appena ho attaccato lei mi è arrivata la notifica subito dalle che c'era una possibile sparatoria nella sua scuola. Al che lì ho proprio detto, senti, ho cominciato a mandargli messaggi, vai lontanissimo dalla scuola, proprio via a portata di tiro, cioè non devi stare a portata di tiro, proprio via. E la chiudiamo qui, la chiudiamo così anche questa puntata di Linee d'Ombra, la prima di questa nuova settimana, era dedicata al vizio dell'ira. Noi vi stiamo continuando a chiedere di mandarci storie che continuano ad arrivare, nel weekend sono arrivate tantissimo, evidentemente il weekend è il momento in cui ci si ha banalmente più tempo e più spazio per poter mettersi lì e mandare la propria storia. Mandateci una storia della vostra vita, un episodio realmente accaduto che in qualche modo vi rappresenta e che avete voglia di condividere con noi, che ha a che fare proprio con quella linea di confine della vostra vita, un qualunque confine abbia a che fare con voi, con quello che vi è accaduto nella vita. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!